America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And the American people deserve a real choice in November. Ted Cruz, questa è l'ultimissima delle notizie di ieri. Ted Cruz, che pensate, ha già annunciato il suo candidato per vicepresidente, cioè la sua scelta di vicepresidente se dovesse vincere la nomination. Devo dire, secondo me si è buttato un po' in avanti e forse dimostra insicurezza, perché in genere questo è un segreto custodito fino al momento del clou della nomination alla convention, quando tutti sono in attesa spasmodica e ecco che il segreto viene rivelato, chi è il candidato alla vicepresidenza. Invece Cruz lo ha già fatto, lo ha già così, vuole portarsi in avanti. Il problema è che ha scelto Carli Fiorina. Ecco, devo dire, non mi sembra una grande scelta vincente. Sì, certo è una donna, però Carli Fiorina non ha fatto un'ottima performance, non è una politica che gli porti una base di partito. Seconda notizia di ieri, sentiamo. I'd like to talk today about how to develop a new foreign policy direction for our country. Ecco, qui avete riconosciuto, perché la sua voce è inconfondibile, Donald Trump. Donald Trump, che invece ha cercato di cambiare abito. Devo dire, la cosa di più che mi ha colpito di questo suo discorso di ieri dedicato alla politica estera non è stato tanto il tema, che è un tema importante su cui è intervenuto, dove peraltro ha attaccato ferocemente le scelte di politica estera di Obama senza dare un grande quadro propositivo, ma la cosa che mi ha colpito di più è che ha pronunciato un discorso leggendolo dal teleprompter. Come dire, Trump vuole mostrare che può anche essere disciplinato. E sono due eventi nuovi che si agganciano ai risultati elettorali di cui abbiamo parlato ieri, di martedì scorso, dove Trump ha vinto molto bene, e prima degli appuntamenti della settimana prossima in Indiana. Ecco, ho con me ai microfoni di America 24 Federico Rampini, che segue, come me e come altri colleghi qui da New York, queste elezioni passo passo. Buongiorno Federico. Buongiorno Mario. Allora Federico, dunque, intanto, hai sentito, cominciamo dalle notizie, ma Fiorina, ma ti sembra una scelta molto, come dire, brillante quella di Cruz? Come la interpreti? Brillante non direi proprio. Concordo con te che Carli Fiorina, quando era ancora candidata, una dei candidati repubblicani, ha dato un'impressione francamente modesta. Mi sembra una scelta dettata dalla volontà di sfruttare un punto debole di Donald Trump. Donald Trump ha avuto spesso delle uscite misogine, offensive nei confronti delle donne, ancora di recente ha attaccato in modo abbastanza volgare Hillary Clinton, dicendo se fosse un uomo avrebbe a malapena il 5% dei voti, come dire la votano solo perché è una donna, cosa che certamente irrita molte donne americane, questa condiscendenza. E allora, per tentare di sfruttare un tallone d'Achille di Donald Trump, Ted Cruz si è preso come vicepresidente in pectore una donna, però francamente non una donna molto molto popolare negli Stati Uniti. Ecco, anche perché devo dire, sentivo qualcuno, non so se poi succederà, perché ovviamente queste non sono scelte che possono essere programmate, mancano ancora mesi al risultato finale, ma sentivo qualcuno che suggeriva che Donald Trump avrebbe potuto avere l'asso nella manica portandosi come vicepresidente niente meno che Condi Rice, quindi non solo una donna, ma una donna afroamericana e soprattutto una grandissima esperta di politica estera. Non so se questo succederà. Ma parliamo di politica estera e di Trump. Lui cerca di darsi credibilità. Ecco, secondo te Trump ormai, non so se concordi, ma a me sembra che ormai sia avviato verso la nomination. Certo, potrà esserci una broker convention, ma non credo. Cosa pensi? Pensi che davvero i repubblicani a questo punto possano bloccarlo? Forse ci proveranno, ma credo che è una manovra che ha ormai scarsissimi margini, poche probabilità di successo, perché con questi numeri, con queste vittorie multiple, il fenomeno Trump è difficilmente arrestabile alla convention. Quindi sono d'accordo con te. Penso che Trump ce la farà, ed è interessante questo suo tentativo di riconversione della propria immagine. La lettura dal teleprompter suggerisce un così, un'operazione di chirurgia estetica, vuole sembrare più statista, più presidenziale di prima. Sì, chissà quante ne ha fatte poi di questa operazione di chirurgia estetica, chissà quante ne farà ancora, insomma staremo a vedere. Ecco, c'è una cosa che a me interessa molto in questo dibattito presidenziale, cioè che tutti danno per scontato che in uno scontro Hillary-Trump vinca Hillary. Però, riflettiamo. Finora tutti i pundits, cioè i grandi esperti di politica americana, hanno sottovalutato Trump. Un Trump che sta crescendo, che vince sempre meglio, con una Hillary che invece è un po' debole perché, come dire, è attaccata dal suo avversario interno, Bernie Sanders, che ha fatto bene, ha preso anche uno stato l'altro giorno. Dunque, possiamo immaginare o è impossibile che a elezioni finite a novembre avremo un President Trump? Ma guarda, io sono d'accordo con te che bisogna essere molto cauti, perché tutti senza eccezione, a sinistra come a destra, 6 mesi fa, 9 mesi fa, non avevano capito Trump, lo avevano sottovalutato, avevano pensato che fosse un fenomeno divertente ma passeggero. Quindi a questo punto sottovalutarlo può essere un errore. A me ha colpito tra l'altro una cosa del suo discorso di politica estera, molto generico, molto vago come sempre, però con un elemento forte: il richiamo a Ronald Reagan e al rifare l'America grande. E non c'è dubbio che questo è uno slogan che fa leva su un sentimento diffuso. Almeno una parte degli americani rimproverano a Obama di avere gestito un ripiegamento, un ridimensionamento, una sorta di ritirata dell'America, e hanno voglia che qualcuno gli dica quello che gli sta dicendo Trump: torneremo a essere grandi, torneremo a essere la nazione leader che guida il mondo intero. E io penso che sia un'illusione, cioè penso che sia molto più moderno Obama, che ha capito che non ci sono più le condizioni di un mondo unipolare o di una Pax americana, e tuttavia alle volte le elezioni le vince chi vende sogni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Federico, abbiamo parlato di elezioni, abbiamo parlato di questo grande paese, di questa corsa elettorale. Che canzone ti viene in mente? Guarda, premesso che io continuo a sperare che vinca Hillary Clinton, voglio fare uno scherzo, e cioè dare come canzone tipo di Donald Trump, visto che lui sogna un'America grande, la canzone che ha usato nei suoi comizi Bernie Sanders, America di Simon e Garfunkel. Direi perfetta, anche perché poi in fondo sia Trump che Sanders rappresentano una protesta, un malessere americano, e dunque America di Simon e Garfunkel. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America, laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an old